in primo piano. Beh, continua la vicenda. Gli appalti, l'inchiesta, le intercettazioni. Appalti, lascia il PM indagato, Berlusconi ai suoi, troppe intercettazioni, subito la legge, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Appalti, le mani sull'Aquila, questo per Repubblica. Rotola la prima testa, è un giudice, questo è il titolo di apertura del Giornale. Le telefonate di Veltroni, questo invece è l'apertura di Libero. Il Messaggero, appalti G8, Toro lascia la toga. Toro è il giudice, appunto, che è indagato e che è il primo ad aver abbandonato la toga, insomma si è dimesso. Queste alcune delle aperture, altre le vedremo. Il Fatto Quotidiano invece, come La Stampa, punta sulla corruzione. Ieri c'è stata l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Corruzione più 229%. Lui è Berlusconi, bavaglio alle indagini, questo è il Fatto. Mentre La Stampa, corruzione, cancro italiano, l'allarme della Corte dei Conti, le denunce aumentate del 229%. Ma insomma, il tema delle intercettazioni tiene banco sempre di più, anche perché oggi ne leggiamo altre. Per esempio, voglio iniziare da Repubblica, ne cito alcune, le più significative a mio modo di vedere, ma poi ne sono pieni i giornali con tanto di annesse polemiche. Come detto, Repubblica titola così: appalti, le mani sull'Aquila, smentito Letta, i lavori a chi rideva sul sisma. Carlo Bonini: il provveditore è a nostra disposizione, ma in cambio vuole la nomina all'ANAS. Questo è il titolo delle intercettazioni, dove secondo Carlo Bonini ci sarebbero un insieme di telefonate, una cricca, così la definisce, un appendice della cricca sostanzialmente, una serie di persone che coinvolgono anche giudici della Corte dei Conti, per esempio, che si mettono d'accordo per ovviamente facilitare appalti, lavori nel momento in cui c'è stato il terremoto all'Aquila, tanto che Repubblica va diretta al bersaglio politico. A pagina 4, dalla Maddalena al Nuoto, la rete di Letta. Al capo della protezione civile diceva: la Unione Europea ci critica, chiama il tuo amico Dimas. Stavros Dimas, che era il commissario europeo all'ambiente, che voleva aprire una vicenda per insomma una procedura di infrazione sulla Maddalena. C'è questa telefonata, secondo Repubblica, di Letta, che chiama Bertolaso e dice: ho saputo che Dimas apre una procedura di infrazione sulla Maddalena, mi ricordo male o tu eri amico di Dimas? Come dire, chiamalo e vedi di sistemare la cosa. Infatti c'è questo retroscena, la rabbia di Gianni: sono stato ingannato. E Claudio Tito, che dice: Gianni Letta difficilmente perde la pazienza, ma ieri avrebbe detto: forse sono stato ingannato, ma mi sono sempre comportato in maniera corretta. E Silvio Berlusconi e alcuni ministri per la prima volta lo hanno visto ieri infuriato, anche se Berlusconi dice: guai a chi tocca Gianni Letta. Ma insomma, per esempio, un'altra intercettazione, l'Unità punta su questo, accusando tra l'altro il governatore della Sardegna in qualche modo di commenti xenofobi contro i suoi stessi corregionali, tra l'altro i sardi. C'è questa telefonata tra Verdini, il coordinatore del PDL, Cappellacci, cioè il presidente della Sardegna, e Fusi, vale a dire l'imprenditore Fusi, al centro di molte intercettazioni. Cappellacci dice: è la più bella terra d'Italia, e Fusi dice: io sono innamorato di quella terra, un po' meno dei sardi. Ed ecco qui la frase incriminata di Cappellacci: guarda, sfondi una porta aperta, perché ho la consapevolezza del vero grande limite della Sardegna, noi sardi. Per la verità, poi si dice, e ride, quindi insomma può essere letta anche come una battuta, anche perché Cappellacci stesso è sardo. Ma voglio dire, il tema delle intercettazioni è al centro dell'agenda politica secondo molti, perché Berlusconi non ne può più. Berlusconi convoca i ministri, blindato il disegno di legge sulle intercettazioni, leggiamo a pagina 7 del Sole 24 Ore. Non è una nuova Tangentopoli, ma Berlusconi avrebbe definito una barbarie il processo mediatico in atto sui giornali con la pubblicazione di intercettazioni e di indagini ancora in corso. Già, le intercettazioni, vecchio pallino di Berlusconi, che avrebbe detto anche, secondo il Corriere, Berlusconi indignato, intercettazioni, ora basta, bisogna varare subito la legge, avrebbe appunto detto ai suoi consulenti politici, a questo punto andiamo avanti subito per bloccare questa ridda di intercettazioni che si leggono sui giornali. Tanto che sulla prima pagina del Sole 24 Ore leggo un commento, un editoriale che peraltro non è firmato, dal titolo «Lo smog dei clan e l'aria pulita del mercato», che vado a leggere in alcuni stralci. Che impressione può farsi dell'Italia chi guarda da lontano il caos delle intercettazioni, delle accuse, delle pressioni palesi e nascoste di cui i giornali trattano in queste ore? La prima preoccupazione è che non sia contro Guido Bertolaso solo un affondo che poi non arrivi mai in un tribunale. Chi non rinuncia a dirsi garantista, scelta che non è affidata a variabili filosofie personali, ma è a tutti imposta dalla Costituzione, non può non guardare con amarezza al reticolo di amicizie, fratellanze, consorterie, reciproci favori, ammiccamenti che prova a inquinare il nostro libero mercato. Il nuovo rischio, come ieri tra l'altro evidenziato Giovanni Bazzoli, sul Sole, è che quelle virtù, quei limiti vengano travolti e negati da un sistema dove non vincono l'appalto più innovativo e tecnologico, l'azienda più capace di economia di scala e rapidità, il progettista più elegante e razionale, le maestranze più affidabili. No, tutto si rincorre tra leporelli servili, capitan fracassa roboanti, avi di pantalone che mettono alle corde etica e sana economia. In attesa che la responsabilità dei singoli, incluso Bertolaso, vengano esaminate, è indispensabile che l'aria cambi e il governo, l'opposizione e l'intera classe dirigente devono contribuire a mutarla liberandosi delle mele marce. Non è in gioco un affare, una lobby, un interesse privato, è interesse nazionale che da lontano o da vicinissimo l'Italia non sia quel paese che sembra essere nelle intercettazioni. Insomma, anche per il giornale il governo è in allarme, Berlusconi dice reagiremo, bisogna fare qualcosa sulle intercettazioni, il Fatto Quotidiano dice attenzione, c'è un fondo di Antonio Padellaro proprio su questo, cioè dice si vogliono mettere il bavaglio alle indagini. Antonio Padellaro dice grazie alle intercettazioni, ora tutti conoscono gli affari sporchi realizzati dalla cricca di politici e costruttori sulla torta delle grandi opere, forse anche sulla pelle dei terremotati dell'Aquila. Una straordinaria buffata di denaro pubblico col contributo fattivo di parenti, amici, amici degli amici, le immancabili escort che adesso è sotto gli occhi di tutti. Ovvio che il Premier sia furibondo e voglia impedire altre vergogne del genere. E pazienza se una volta legate le mani alla magistratura, corrotti e corruttori continueranno a delinquere, per non parlare della moltitudine di criminali che resteranno a piede libero. Sappiano lor signori, ecco l'appello finale di Padellaro, che per impedire questa nuova infamia siamo disposti a organizzare 10-100 Alfeus, cioè il teatro dove si ritrovarono per dire no alle intercettazioni, al bavaglio sulle intercettazioni, come era definito. Sappiano, dice Padellaro, che saremo molto più incazzati. Questo pare il nuovo fronte, le intercettazioni spiattellate qua e là, anche se per esempio il giornale Libero puntano dalla lettura delle intercettazioni in altra direzione. Le telefonate di Veltroni, questo è Libero. Le telefonate di Veltroni, vale a dire a pagina 2, le intercettazioni qui sono di diverso tipo. Sono per esempio Vincenzo Di Nardo che chiama Marco Casamonti, due imprenditori che si lamentano. Io so com'è andata, questi appalti sono tutti pilotati, dice uno. E l'altro, è certo, è Veltroni. Quell'architetto è di Veltroni, l'impresa è di Veltroni. Il sindaco Domenici, che era il sindaco di Firenze, ha preso gli ordini da Veltroni. È una vergogna, ma che vuoi fare? Anche il giornale dice, andando a vedere le persone coinvolte, il ruolo dell'architetto Desideri, per esempio, amico di Veltroni e di Scalfari, il fondatore di Repubblica. La verità mi pare di capire che se andiamo a vedere, insomma, si possono leggere dentro, ci sono dentro un po' tutti. Per esempio, si difende oggi in un'intervista a Repubblica, a Liana Milella, Giuseppe Tesauro, che oggi è giudice della Corte Costituzionale e che aveva rapporti con tale Di Nardo, appunto, un uomo considerato vicino a soggetti vicini ai casalesi. E Tesauro dice che male c'è, non ho fatto nulla di male. Chiariamo subito, non ho niente da rimproverarmi né sul piano morale né giuridico. Le conversazioni con Di Nardo non ho niente a che fare con sta storia di appalti. Mi meraviglia di vedere pubblicate intercettazioni estrapolate che non ci azzeccano niente con l'inchiesta. Ma lei però ha aiutato Di Nardo. Per 25 anni ho fatto l'avvocato civilista, l'ho difeso, in Cassazione avevamo vinto una causa, lui mi è rimasto affezionato, mi ha chiamato per avere consigli. Dunque Giuseppe Tesauro si difende così. Intanto la Corte dei Conti dice che la corruzione è alle stelle, come abbiamo detto, ma Libero dice sì, è la corruzione è alle stelle, ma la Corte dei Conti si ristrutturano casa grazie al terremoto, perché nella Corte dei Conti ci sono nelle intercettazioni anche almeno tre persone, prima tra le quali tale giudice Mario Sancetta, che anche per Repubblica farebbe parte di quella cricca che avrebbe in qualche modo, stando alle intercettazioni e alle interpretazioni, organizzato insomma qualcosa di poco chiaro sugli appalti. Quindi Libero dice la Corte dei Conti denuncia la corruzione, ma alla Corte dei Conti mentre il presidente si scaglia contro la corruzione, intanto i suoi, leggo da Libero, si rivolgono a Di Nardo e soci per rifare bagno e piscina. Allora, questo è il tema politico, questo è il fronte politico, insomma, interessante e con sviluppi promessi, ve li prometto. Andiamo a vedere quella vicenda che è anche la vicenda del nostro sondaggio che riguarda la Gran Bretagna. La vicenda è la notizia che viene appunto dalla Gran Bretagna, vale a dire di questo giornalista della BBC che ha confessato di aver ucciso anni fa per un gesto che lui definisce un gesto d'amore il suo compagno, che era malato terminale, soffriva terribilmente, ha detto il medico è uscito, l'ho soffocato con un cuscino. È stato arrestato ieri, ma l'Inghilterra si è divisa. Eutanasia, in carcere il conduttore BBC. Per la verità non è eutanasia, ma poi ne parleremo. Questo è il titolo di Repubblica. Ho soffocato il mio compagno malato terminale. L'Inghilterra appunto si divide, c'è anche un'intervista al filosofo Gianni Vattimo, che dice io da anni sono iscritto all'associazione Dignitas, un'associazione svizzera che permette appunto la cosiddetta dolce morte o comunque il suicidio assistito. L'unica cosa da evitare, dice Vattimo, in casi come questi è l'ipocrisia. La verità è che anche in Italia la libertà delle scelte dipende dalla classe sociale. Chi può si rivolge a un amico medico e nessuno sa nulla, e poi tutti discutono dei massimi principi. Un Vattimo che si dice favorevole all'eutanasia, assolutamente sì. Mi sarei comportato come il conduttore BBC, non conosco il caso specifico, ma certo se una persona che soffre mi chiedesse di farlo, credo che lo farei. Lei continua a professarsi cattolico nonostante queste posizioni? Certo. Insomma, il tema è molto dibattuto. Oggi sui giornali, Gianni Vattimo fa un'intervista anche alla Stampa, eutanasia, la star della BBC in manette, questo è il titolo della Stampa. Ci sono commenti di chi dice, per esempio Alessandro Meluzzi, sul giornale, in prima pagina, è disumano spegnere una vita per sfuggire alla sfida del dolore. Uccise l'amante malato, arrestata star della BBC. Lui, come detto, rischia 14 anni di carcere, si dice assolutamente non pentito, al diavolo la legge, ho fatto ciò che mi ha detto il cuore. Ripeto, un tema etico molto molto dibattuto. Oggi ne scrive anche in prima pagina di Repubblica in un bel commento che vi suggerisco, non c'è tempo di leggerlo. Che pensiamo di un uomo che uccide per amore? Adriano Sofri, anzi ne leggo solo il passo finale, dice Sofri: quello che ha fatto Gosling, cioè questo giornalista, con molta naturalezza. Gosling è un famoso giornalista, un impegnato militante dei diritti gay. Forse è vanitoso, forse è stanco, non so niente di lui, ma mi sembra possibile, oltre che augurabile, che l'abbia detto e abbia fatto ora, per la stessa ragione per cui lo fece allora. Per amore. Lo scudo sbanca la Svizzera. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Che cosa? Sono le stime di quello che ha fruttato lo scudo fiscale. Dalla Svizzera rientrati 60 miliardi. Si legge a pagina 3 la stima provvisoria di Banca Italia. In tutto saranno 85 miliardi. Complessivamente questo certificato da Banca Italia, i rientri e le regolarizzazioni saranno a 85,1 miliardi di euro, una somma inferiore ai 95 miliardi comunicati dal Tesoro a fine dicembre, ma che nei fatti, scrive il Sole, è perfettamente in linea. Una differenza legata ad alcuni fattori propri dell'intera operazione di emersione. Dunque, secondo Banca Italia, e oggi il Sole 24 Ore analizza, insomma, il rimpatrio dei capitali ha portato a 60 miliardi, in tutto saranno 85,1 i miliardi rientrati per lo scudo fiscale. Ma sul tema fisco voglio andare sul Corriere della Sera, che ha, come spesso accade a Luigi Ferrarella, che è nettamente il più bravo cronista giudiziario in Italia, una notizia in esclusiva: non è reato evadere il fisco se lo Stato non paga i debiti. È una rivoluzionaria sentenza che ha mandato assolto un imprenditore. Perché sostanzialmente? Perché questo imprenditore aveva bisogno, aspettava dallo Stato, dal Ministero della Giustizia, 8 milioni e mezzo di euro per gli impianti, i software di intercettazioni che le sue società avevano dato in noleggio all'amministrazione pubblica. Tema annoso, insomma, di come l'amministrazione pubblica paghi con ritardi vergognosi, gli imprenditori, creando ovviamente problemi di liquidità enormi. E che succede? Allora, lui aspettava 8 milioni e mezzo, nel frattempo aveva evaso il fisco per 3.537 euro, perché era in una situazione di liquidità disastrosa, proprio perché aspettava questi 8 milioni e mezzo di euro, intanto doveva continuare a dare le forniture al ministero. L'hanno processato per evasione fiscale, ma è stato assolto perché il giudice ha detto che effettivamente era una situazione di ritardo clamoroso dei soldi che l'amministrazione gli doveva, che lo ha messo nella situazione di difficoltà in azienda e dunque di evadere il fisco. Non è reato evadere il fisco se lo Stato non paga i debiti. Lo trovate a pagina 21. Luigi Ferrarella spiega molto bene le motivazioni di questa sentenza. Voglio andare a chiudere con due segnalazioni. La prima viene dalla stampa, davvero una vicenda incredibile che ci proviene dalla Calabria. Un paese denunciato per stalking, è una vicenda molto triste. Fa arrestare gli stupratori e la gente la isola. È una ragazza che è stata violentata più volte, oggi ha 24 anni. Viene chiamata Maria, ma è un nome di fantasia. Vive a San Martino di Taurianova, nella piana di Gioia Tauro. Da 13 anni, da quando aveva 13 anni, è stata violentata più volte da braccianti agricoli, operai, gente del suo paese, tutti pregiudicati, alcuni anche per violenze sessuali. Ha trovato il coraggio di denunciare tutto ed è stata pesantemente isolata anche dalla sua famiglia. Viene ingiuriata per le strade del paese, le impediscono di trovare un lavoro, perfino di entrare in bottega a fare la spesa. È una vicenda davvero triste, drammatica, ma incredibile che la stampa oggi denuncia, pagina 21, con anche il commento dello scrittore Mimmo Gangemi. Chiudo la segnalazione dal Sole 24 Ore, un po' col sorriso sulle labbra. L'Unione Europea ha deciso che ci vuole la pizza DOC, quella STG, marchio specialità tradizionale garantita. Sentite qui, la pizza come deve essere fatta? La mozzarella deve essere fusa in superficie, aglio e basilico non devono essere bruciati ma profumati, il pomodoro denso e consistente, il cornicione rialzato di 1-2 centimetri e dorato, lo spessore al centro tra i 0,36 e gli 0,44 centimetri, la temperatura degli ingredienti all'uscita dal forno devono essere la pasta tra i 60 e i 65 gradi, il pomodoro tra i 75 e gli 80, l'olio tra i 75 e gli 85, la mozzarella tra i 65 e i 70 gradi. L'ha deciso l'Unione Europea, se no non è una pizza. Vi è venuta fame? Chi lo sa?